Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. E oggi cominciamo in un modo un po' ortodosso, se vogliamo, però insomma non capita tutti i giorni di stare sulla prima pagina del Financial Times e anche di molti altri giornali. Per noi la caduta del governo Letta, le dimissioni del governo Letta e questa presa di posizione di Renzi, questa scendere in campo per davvero in prima persona, mettersi in gioco in prima persona, ecco, diciamo così, è stata sicuramente la notizia della settimana. Non è stata la notizia della settimana per tutti i giornali europei, ma e non solo, ma per tanti sì. E allora, appunto, vi dicevo, su Financial Times di venerdì, poi c'è spazio anche oggi, però ieri era la giornata in cui la giornata era in prima pagina, il titolo era Italian PM, cioè Prime Minister sacked in democratic struggle, cioè sacked, proprio licenziato in questa lotta, non lotta democratica, ma dico la D maiuscola, cioè lotta all'interno del Partito Democratico. E l'articolo è poi prosegue all'interno, e devo dirvi che poi sono stati, volendo spulciare la rete, c'erano tantissimi commenti. Quello che mi ha incuriosito di più è stato uno su Twitter di un giornalista del Guardian, che ha detto che si apprestava, insomma, a commentare il tutto in televisione con il manuale, con in mano Il Principe di Machiavelli. E avessi potuto consigliargli un altro libro, forse era meglio Guicciardini, perché qui non è tanto appunto una logica da Principe di Machiavelli, ma di particolare, dove vedremo tutti i vari particolari, vedremo chi la spenterà. Ma comunque, questo era un po' la giornata di ieri. Passiamo per una volta, citiamo anche un giornale italiano, perché Repubblica si è occupata nei giorni scorsi di un tema di cui noi ci siamo occupati spesso, che in realtà è stato un po' trascurato dai giornali italiani, salvo poi appunto ogni tanto avere spazio. Appunto venerdì, quindi, Repubblica parlava degli OGM, e il titolo era L'Europa dal via libera al mais OGM. È stata respinta la lettera di 12 paesi, tra cui l'Italia, è stato decisivo il sì tedesco, e ora, scrive Repubblica, la Commissione europea deve ritirare le sue proposte di via libera alle coltivazioni transgeniche, cosiddetti appunto OGM, organismi geneticamente modificati. L'Italia e altri 11 governi europei lo chiedono in una lettera a Bruxelles, ma ottengono in sostanza una risposta negativa. La questione, lo abbiamo detto tante volte, è molto complicata, con risvolti scientifici ma anche culturali, e vedremo insomma come finirà, perché sono tantissimi gli OGM, in particolare in agricoltura, che se usati con giudizio, con buon senso, con intelligenza, senza voler a tutti i costi speculare, potrebbero aiutare nei nostri paesi, ma anche in altri paesi, appunto a avere un'agricoltura più sostenibile e forse anche più efficiente. Sappiamo quante persone ancora muoiono di fame e quanto cibo viene ancora sprecato nel mondo. Passiamo a un altro argomento, perché per una volta i super euroscettici, cioè i britannici, hanno una prova provata che forse il loro euroscetticismo non è così fondato. Financial Times ha infatti pubblicato uno studio che rivela come ci siano degli oggettivi benefici a essere parte dell'Unione Europea, anche se non della zona euro, e che questo essere parte dell'Unione Europea, il Regno Unito tra l'altro è uno dei paesi fondatori, abbia creato ricchezza. L'essere membro dell'Unione Europea ha portato al Regno Unito tutta una serie di benefici, scrive Financial Times, ha permesso di creare ricchezza e posti di lavoro. Lo affermano questi studi del governo di Londra, che il premier David Cameron ha deciso di pubblicare, rendere pubblici, ma con un po' un basso profilo, perché David Cameron appartiene al Partito Conservatore, ai Tories, ai Conservatories, abbreviati appunto in Tories, che sono tradizionalmente anche euroscettici. Quindi il dato c'è. Nella cultura anglosassone c'è più propensione a non nascondere i dati, però insomma li si possono presentare in tanti modi, quindi appunto con un pochino di cautela da parte di Cameron. Per questo il Premier ha promesso un referendum, tra l'altro dentro o fuori dall'Unione Europea, da tenersi nel 2017, sebbene lo scorso mese sia naufragato in Parlamento una proposta di legge per fissare i termini di questa consultazione. Quindi è, come abbiamo detto tante volte, l'opinione pubblica su questi temi è anche molto influenzata dalla crisi economica attuale. Se forse tutti ragionassimo un pochino di più, capiremmo quale capolavoro, sicuramente sociale, ma forse anche economico, è stata la creazione dell'Unione Europea. Passando invece, anzi non passando, ma restando un pochino in tema di crisi e toccando un altro tema che, di cui spesso ci siamo occupati, cioè quello del ruolo che internet può avere nella società, nell'economia, nelle imprese e anche del ruolo che deve avere l'Unione Europea come quindi come regolamentatore di internet, vi segnalo un articolo invece apparso sulla stampa francese, in particolare su Le Monde, dove si spiega che l'81% delle aziende fallite in Francia nel 2013 non erano presenti sul web. Si fanno anche dei confronti europei per capire appunto che questo essere presenti sul web, che poi può voler dire tantissime cose, anche solo come comunicazione, se non si vuole a tutti i costi per esempio vendere, o comunque per esempio un altro modo molto efficace, quello di essere sempre in comunicazione con i propri clienti, è un vantaggio, sta diventando un vantaggio competitivo. E scrive tra l'altro Le Monde, l'Unione Europea appunto dovrebbe incentivare soprattutto le piccole aziende che credono che siano investimenti che non valga la pena di fare, a fare invece questi investimenti in infrastrutture tecnologiche. Vi leggo appunto questi dati: l'81% delle aziende francesi che sono fallite nel 2013 non era presente su internet o sui social network. È uno studio fatto dalla società belga Email Brokers, che ha passato in rassegna 2,59 milioni di siti internet attivi in Francia grazie a un software in grado di analizzare la struttura di ogni sito, il numero di pagine, la data dell'ultimo aggiornamento e il settore di attività. Poi ha incrociato queste informazioni con i dati ufficiali dell'INSEE, l'Istituto Nazionale di Statistica francese. È appunto una cosa interessante, secondo me uno spunto, magari sarebbe bello realizzare anche uno studio simile per l'Italia e per tutti i paesi europei, potrebbe appunto pubblicarsi, occuparsene per esempio Eurostat, per dare delle prove provate a chi magari è ancora scettico, soprattutto tra i piccoli imprenditori, sui vantaggi dell'investire su internet. Passiamo a un altro argomento di cui ci siamo occupati spesso e che credo veramente dovremmo continuare a seguire, e che è quello di quello che sta succedendo in Ucraina. Aspettate che non trovo più il pezzo, quindi faccio un'altra citazione prima, che visto che parlavamo di internet c'è anche quest'altra questione che riguarda internet e la Turchia. La Turchia, sapete, è uno dei paesi che più ambiremmo a far entrare nell'Unione Europea, perché molto sarebbe un ideale cerniera tra Occidente Oriente, ma la Turchia ha i suoi problemi, ci sono stati dei rallentamenti nei negoziati e soprattutto il governo ha appena messo un bavaglio a internet. Allora scrive questo articolo Ripreso Internazionale, è un articolo di Al Monitor, e la reazione dell'Unione Europea non si è fatta attendere a queste restrizioni. Sono intervenuti il commissario europeo all'allargamento Stefan Füle, il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, però non è, ripeto, la Turchia per ora non è parte dell'Unione Europea, quindi quello che fa, le decisioni che prende a livello governativo possono essere criticate e sanzionate, ma non possiamo certo permetterci di interferire in queste decisioni. Però può essere sicuramente una moral suasion, far capire che all'Unione Europea, ma in realtà forse a nessuno, almeno sulla carta e almeno a parole, piace che uno strumento che potrebbe essere così veicolo di libertà come internet venga regolato, venga censurato, ammesso poi che sia possibile. A parte Kiev, che continueremo a seguire, ve lo prometto, purtroppo il tempo adesso sta quasi per finire, vi segnalo invece un'altra area di crisi, perché l'Ucraina è un'area di crisi. Non sappiamo ancora come andranno a finire le manifestazioni di piazza, le prese di posizione dei vari sostenitori dei vari partiti, la posizione del presidente, che è come un cuore spezzato, per dirla in modo un po' forse troppo poetico, tra l'Unione Europea e la Russia di Putin, che lo vorrebbe invece sempre più vicino a sé. Quindi non sapremo appunto se l'Ucraina si avvicinerà di più all'Unione Europea o di più alla madre patria russa. Lo vedremo, continueremo a seguire tutti gli scontri, che speriamo non sfocino mai in una guerra civile. Ma parliamo invece di Sarajevo, perché quella è una crisi che avevamo quasi dimenticato, però forse insomma tutte le ferite così profonde lasciano delle cicatrici che magari si riaprono. Ecco allora appunto che anche in questo caso internazionale riprende un articolo di Djevnik, un giornale macedone, che spiega come la comunità internazionale segua con preoccupazione gli eventi in Bosnia e Erzegovina, perché nel paese hanno destato scalpore le dichiarazioni dell'alto rappresentante della comunità internazionale per la Bosnia, l'austriaco Valentin Inčko: se ci fosse un'escalation saremo costretti a prendere in considerazione situazione un intervento delle truppe dell'Unione Europea. Secondo INCCO, il paese sta attraversando la situazione più difficile, pensate, dopo la fine della guerra e gli accordi di Dayton del 1995. E qui poi potremmo aprire un altro capitolo, che è quello dell'esercito europeo. Ne abbiamo parlato in passato. È difficile, non abbiamo di fatto un esercito europeo, dovremmo trovare una formula per intervenire, per ora non ci sono stati veri e propri interventi firmati Unione Europea, e questa è un'altra delle tante, dei tanti aspetti che ci piace tenere monitorati o sui quali riflettere nel corso di queste rassegne. Il tempo però purtroppo è finito, io vi auguro un ottimo sabato e vi do appuntamento a sabato prossimo. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.